coraggio, amore mio. Ed eccoci in studio, naturalmente prima di passare la parola al nostro ospite, due semplicemente così notizie biografiche. E il nostro ospite naturalmente in veste di scrittore in questo caso, ma è anche titolista e prefatore per conto terzi, diciamo così, è traduttore dei grandi classici latini naturalmente, e poi un sacco di altre cose, un viaggiatore dell'anima, che poi spiegheremo in un'altra occasione di che cosa si tratta, e molteplice, diciamo che è un eclettico, come dire, un'eclettica figura di punta dell'intelligenza nostrana. Prego al nostro ospite. Beh, intanto grazie a Gesuina, grazie ad Antonio per questa occasione. E grazie anche per la colonna sonora. Queste sono, essendo ormai io quasi millenario, non centenario, queste sono le canzoni della mia infanzia. Se non le sento qui, non le sento da nessuna parte. Allora, l'occasione è per parlare del mio ultimo romanzo, che si intitola Il castrato di Vivaldi, ed è la storia di un castrato famoso, ma non famosissimo quanto i suoi meriti e le sue capacità avrebbero meritato, di cui ho trovato qualche labile notizia e che poi ho amplificato in un romanzo, che è un romanzo di quasi 400 pagine. Dico questa cosa subito perché è una cosa che spaventa di questi tempi in cui si legge, però voglio dire che è un vero e proprio feuilleton moderno. Il feuilleton, in Italia noto come romanzo d'appendice, era quel romanzo che i giornali, i quotidiani di un tempo mettevano alla base, in prima pagina, in realtà quattro pagine in tutto erano i giornali, e aveva lo scopo di fidelizzare il lettore, per cui il lettore comprava il quotidiano del giorno dopo per sapere come andavano le vicende dei suoi beniamini. E quindi questo è un romanzo in cui c'è una curiosità, una svolta, un'invenzione ogni 20 righe. Le serie TV attuali. Certo, e quindi è una cosa che, sì, le pagine, devo dire, corrono via. Bene. Allora, in questo primo giro io vorrei dire come è nato questo romanzo. Sì. Allora, un giorno viene da me, stavo presentando, non mi ricordo dove, credo in quel di Verona, in quel di Vicenza, viene da me una persona che poi ho conosciuto essere uno dei più grandi musicisti, uno dei più grandi esecutori di oboe, che è il maestro Giuseppe Nalin, personaggio con cui ho realizzato immediatamente una sintonia, perché pensatevi che questo personaggio, questo genio della musica, anche lui come me ama vivere in provincia, nel cono d'ombra. Lui ha una discografia da far impazzire non so chi, e insegna educazione musicale in una scuola media. Cioè, lui preferisce gestire la sua vita così. Devo dire che con Beppi Oboe, gli amici hanno il privilegio di chiamarlo Beppi Oboe, siamo andati avanti a darci del lei, credo per 45 secondi. E allora lui viene da me e mi dice: sa, senta, dice, ci sarebbe sta storia di questo castrato da raccontare, e me ne ha parlato brevemente. Naturalmente uno che fa il mio mestiere, cioè che è il mestiere che ti permette di vivere scrivendo, ha dei progetti di scrittura. Io so cosa scriverò l'anno prossimo. Prima ero al telefono con un altro dei miei editori con cui sto programmando i libri per i prossimi anni, e Angelo Pastrello dell'editoriale programma quello che fa i libri allegati ai quotidiani del gruppo Espresso, eccetera, e abbiamo programmato, io so cosa scriverò, se il buon Dio mi dà salute, cosa scriverò nei prossimi anni. Quando Beppi mi ha detto questa cosa, io ho capito in 10 secondi che dovevo ribaltare la scaletta, le priorità della mia vita, e che questo castrato, Angelo Sugamosto, detto lo Zerino, avrebbe sconvolto la mia vita di scrittore. E sono cominciati 5 anni, perché questo romanzo mi è costato 5 anni di lavoro. E guardate che va bene che io faccio tante altre cose, ma guardate che 5 anni monotematici, dedicati con l'idea fissa di raccontare questo personaggio e di raccontarlo, come dire, in maniera credibile, di farne un personaggio vero, eccetera. 5 anni sono tanti. Tanti. L'ultima volta che sono stato qui, adesso questa cosa posso dirla a posteriori, l'ultima volta che sono stato qui sono venuto a parlare di quello che adesso è il mio penultimo romanzo, che è Il delitto sulla collina proibita. Sì. Vi devo dire una cosa, Il delitto sulla collina proibita, che era un vecchio progetto di scrittura peraltro che avevo, Il delitto sulla collina proibita sono 6 mesi sabbatici che mi sono presi dalla stesura del Castrato di Vivaldi, perché a un certo punto ero così assediato e così condizionato da lui, che mi penetrava da tutte le parti, che ho detto basta. Mi sono preso 6 mesi e ho scritto Il delitto sulla collina proibita. Poi il prossimo giro comincio a dire anche un po' Esattamente. Sì, sì, sì, sì. Possiamo anche fare qualche ulteriore, cioè un'indicazione, il castrato, eccetera, eccetera. Mi domando, un tempo era, come dire, un qualcosa di normale, ma vedendolo con gli occhi di oggi, ma lo stesso, non lo so, non sono così convinto che fosse un qualcosa di così accettabile da un punto di vista umano. Ecco, naturalmente il romanzo affronta tutte queste tematiche. E le affronta in maniera seria, ma anche leggera, un assaggio allora, di questo. Allora, il fenomeno del castratismo è un fenomeno diffusissimo. È per cantare, no? Come si castra? La Chiesa aveva escluso la possibilità delle donne di salire sul palcoscenico. Ecco qua. E bisognava... i sopranisti, la voce bianca, succedeva che un coro di una parrocchia, questa è la vicenda di Angelo Sugamosto, il parroco si accorgesse di una voce particolarmente delicata, e lì, sai, la miseria si proponeva ai genitori, si capiva che c'era una possibilità di riscatto, e bisognava stare molto attenti, perché se sbagliavi non l'anno, il mese, ma anche la settimana. Addirittura. L'operazione era un'operazione brutale, brutale. Ecco. Io nel romanzo anche un po' la racconto, brutale. Il tasso di mortalità era altissimo. Si dice che a Napoli ci fossero intere vie con delle scritte, con delle insegne: qui si castrano bambini. Okay. La mortalità pare fosse dell'80-90 per cento. Perfetto. E questa è una cosa terribile. E il mio castrato è un castrato che per tutta la vita, ma questo lo dirò dopo, sente il peso di una cosa terribile. E adesso, perché c'è questo, insomma, io non so mai come dirla questa cosa qui, perché è una cosa molto delicata, ma c'è molta confusione sui castrati. Boh, intanto devo dire, chiedo scusa, prendo altri 2 minuti. Certo. Intanto devo dire che dell'ultimo castrato, Angelo Moreschi, l'ultimo castrato della Cappella Sistina, abbiamo persino la voce. Registrata agli inizi del secolo, quindi è un fenomeno che si è portato avanti. Dopo, se c'è un minuto di tempo, racconto, perché anche questo è avventurosissima come è avvenuta. Benissimo. Ho potuto anche scoprire queste cose e tutte le racconto nel romanzo. Io questa cosa qui però non so mai come dirla, perché, ripeto, c'è molta confusione. Il castrato perdeva la capacità di procreare, ma non la capacità di andare con le donne. Ecco. Per cui in una stagione della nostra storia in cui la statura media era 1,60 m, questa tempesta ormonale scatenava delle rivoluzioni all'interno, diventavano alti anche 1,90, 2 metri, avevano un corpo straordinariamente possente. E adesso la devo dire questa cosa, non essendoci emissione di sperma, erano degli amanti infiniti, ed erano ricercatissimi, perché al fatto fisico si aggiungeva il gusto del proibito, evidentemente, andare a fare all'amore con la persona che porterebbe borderline. Esattamente. Bene, possiamo passare ad altro brano. Allora, se la seconda canzone in programma è Grazie dei Fior, che è stata la prima canzone che ha vinto a Sanremo nel 1951. E la canta Nilla Pizzi. Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei conosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore in mezzo a quelle rose? Ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Eccoci in studio, ecco. E noi lasciamo naturalmente al nostro ospite il compito di continuare in questa storia affascinante e misteriosa. Allora, il castrato di Vivaldi. Allora, mi riaggancio a quanto ha detto la mia padrona di casa, Gesuina Maccari, un istante fa. La voce dei castrati. In realtà noi non sappiamo com'era la voce dei castrati. Il film, approfitto per dire anche una cosa, naturalmente quando uno si mette a scrivere di un argomento si guarda in giro per capire cosa hanno scritto gli altri. Naturalmente. E la notizia che devo dare, che devo sottolineare, è che il fenomeno del castratismo, se si esclude una novella, un romanzo breve se si vuole, di Balzac, non è mai stato affrontato dalla letteratura europea. Addirittura. O americana, cioè dalla letteratura occidentale. E quindi posso tranquillamente dire che il mio romanzo è il primo romanzo sul fenomeno del castratismo. E lo stesso film, e qui arrivo alla voce dei castrati, lo stesso film Farinelli, voce regina, non nasce da un romanzo ma da una sceneggiatura originale. E la scommessa che hanno fatto il regista, coloro che hanno costruito, perché è un film costruito, questo film, io l'ho trovato anche molto gradevole, un fumettone ma molto gradevole, e appunto, l'ho detto un istante fa, è una scommessa, perché la voce del castrato Farinelli, Broschi, castrato Farinelli, fratello del grande compositore, è ottenuta sommando e mixandola al computer una voce maschile e una voce femminile. Ah, quindi è un esperimento. È un esperimento. Prima dicevo che noi abbiamo la registrazione della voce di Moreschi, l'ultimo castrato della Cappella Sistina, però devo anche precisare che non ci può essere fertile di indicazioni. Intanto perché colta, insomma, lui è vecchio, sgraziato, perfino stonato, senza voce, non fa testo, diciamo, ecco. Allora è una bella storia quella di quella registrazione. Intanto, quando si parla di registrazione, ricordiamoci che si tratta di rulli di cera, certo. Cioè la registrazione digitale sta ai rulli di cera come la terra all'intero universo. Allora, quelli che poi sarebbero diventati BBC andarono a Roma per registrare la voce di Papa Leone XIII. Non se ne fece niente e lì non è ben chiara la cosa. Forse qualcuno sconsigliò al pontefice, le sensibilità erano molto diverse di dare la sua voce a un mezzo meccanico. Forse la voce del Papa, ormai vecchissimo, era troppo flebile, insomma non se ne fece niente. Per non andar via a mani vuote, registrarono la voce di Moreschi. E chi vuole, con un po' di pazienza, ma la si trova in rete. Però i file sonori in formato MP3 si trovano in rete e la si può ascoltare. Quindi però, quando parliamo della voce dei castrati, ricordiamoci che noi non sappiamo di che cosa si parla, non sappiamo com'era effettivamente abbiamo le testimonianze degli antichi, i quali parlano di per i grandi castrati, parlano di qualcosa di unico, di irripetibile. I castrati erano autentici padroni delle scene, se ne fregavano altamente dell'opera che stavano rappresentando, e se gli veniva l'estro di cantare, si chiamava l'aria del cassone, no? Cioè quello che si portavano dietro come nel bagaglio a mano, se gli veniva in mente di cantare un'altra cosa, magari prima si erano messi d'accordo con gli orchestrali, partivano alla faccia del compositore, alla faccia del librettista, mettevano dentro un'altra cosa. Ripeto, sono tutte cose, sono tutti aspetti a noi non noti, che io ho scoperto con consulenza continua del maestro Nalin, sia chiaro. Ah, poi mi dovete consentire di citare un altro dei miei consulenti, alla fine ne ho ringraziati almeno 25, voglio citarne un altro subito dopo. Dicevo, con la consulenza del maestro ho raccontato tutte queste cose. Alla fine del romanzo, per avere una controprova, ho mandato il testo in PDF, in formato Word, non mi ricordo, a un direttore italiano d'orchestra, giovane ma molto affermato già in Austria e soprattutto in Germania, è una delle grandi speranze della musica sinfonica. Si chiama Luigi Calesso e lo da Cusignana, e lo dico con orgoglio e anche con una lacrima, perché è stato mio allievo, l'ho portato io agli esami di maturità. È una persona straordinaria e di un'umiltà, mi dice Don Dionisio, parroco di Cusignana, mi dice che quando lui viene, lui lavora col coro della parrocchia, lui che ha i massimi orchestrali, è famosa la sua incisione del Don Giovanni, citatissima, lui è mozartiano, mi ricordo quando eravamo a scuola, io ero un bacchiano, Giovanni Sebastiano, e lui già allora, era quindicenne, sedicenne, ma Mozart, professore, mi diceva Mozart, e sono un mozartiano anch'io, convertito da lui. Sono due cose molto sono due musiche diversissime, però anche Bach a me piace molto. Sì, sono cose completamente diverse, sono anche epoche e gusti, soprattutto, e anche, come dire, pubblici diversi. Giustamente, esatto. A me piace anche molto Vivaldi, musica di sì, ben, allora, beh, approfitto allora a sto punto. Il castrato di Vivaldi, perché Vivaldi è il suo maestro a Venezia. Ah. E lui assiste alla, come dire, alla, al dramma di quest'uomo che era sempre strozzato dalle necessità, dalle impellenti necessità finanziarie, da uno stato di salute malfermo. Era un prete che diceva poche messe e di cui i maligni dicevano che fosse circondato da donne. In realtà lui aveva una ragazza che aveva conosciuto a Mantova e si era portata a Venezia, l'Anna Girò, con la quale aveva dei rapporti che io non mi sentirei giurare che fossero di castità assoluta. Ma questa situazione, si racconta che Vivaldi magari era nelle poche messe che diceva, era sull'altare mentre celebrando messa, gli veniva un'idea, andava in sacrestia di corsa a scrivere. E lui per esempio aveva puntato molto a un certo momento della sua vita su una stagione a Ferrara. Il vescovo di Ferrara lo bloccò alle porte di Venezia, lui ci rimise un mare di denaro a cui cercava di sopperire a questa perdita vendendo i suoi manoscritti a quintali. E naturalmente gli antiquari e i rivenditori di musica erano le sue porte come avvoltoi, ma quando entravano dentro lo strozzavano coi prezzi. Lui insegnava musica, chiedeva aumenti di stipendio ma non glieli davano, eccetera. Aveva una vita disordinatissima e ricordo a tutti che, attirato dalla possibilità di guadagnare e di stare meglio, andò a Vienna in un periodo storico di grandi cambiamenti, non riuscì mai a realizzare quello per cui era andato a Venezia, morì e noi non abbiamo il corpo di Vivaldi, che è sepolto in una fossa comune, chissà dove, come Mozart. Chissà perché lo chiamavano il prete rosso. Prete rosso. Perché era prete e perché era rosso di capelli. Rosso di capelli, cioè, semplicissimo. sì, proprio per questo. Okay. Comunque ha delle bellissime, le quattro stagioni che sono molto belle, c'è la primavera. Ok, possiamo procedere. Allora, sì, possiamo con il mio castrato, Angelo Sugamosto, non conosce solo Vivaldi, ma conosce anche Handel, diventa grande amico di Goldoni, sì. E nella parte finale della sua vita conosce Casanova. Ah. Devo dire che è stato splendido. Molta parte della sua vita me la sono immaginata io sui pochissimi dati disponibili. Sì. Ma quello che vorrei dire è come è organizzato il romanzo. Il romanzo procede a capitoli alternati. Uno in cui racconto me stesso, uomo del 2000, e uno in cui racconto pari dispari, in cui racconto la vita di Angelo Sugamosto dello Zerino. Il primo capitolo è, diciamo, Gian Domenico, anche se non si chiama Gian Domenico nel romanzo, ma è molto autobiografico da sto punto di vista, che fa il giornalista e una volta ha un problema minimo, deve incorniciare una ducale veneziana e va in cerca di una cornice adatta in un mercatino antiquariato e il bancarellaio gli tira dietro, assieme alla cornice, proprio gli tira dietro anche il ritratto che c'era dentro questa cornice. Dietro al ritratto c'è scritto castrato con oboe. E lui la mette su un sottoscala, ma poco a poco comincia ad affiorare in lui la voglia di conoscere chi è questo castrato e comincia tutta una serie di indagini. E da questo punto di vista è proprio un vero poliziesco della cultura. Allora, in un capitolo racconto la ricerca, le scoperte continue, gli indizi, la capacità di valorizzare certe cose. In un altro racconto la vita di Angelo Sugamosto, andando avanti, e ogni capitolo rilancia il capitolo successivo. Alla fine, non in modo magico, perché io non credo all'esoterismo, a quelle sciocchezze, a quelle baggianate lì, non ci credo proprio, in un modo molto fisico, molto reale, la vita di Angelo confluisce nella mia, la vita del castrato del Settecento confluisce nella vita del narratore moderno, e in qualche modo i due si conoscono e si abbracciano. Ripeto, che nulla, nulla di magico nulla di esoterico, di fantasmi, non credo in quella cosa. E la sfida era raccontarlo in una maniera che non fosse, che non fosse quella proprio abusata di tanti romanzi. Esatto. E il finale è proprio, come dire, l'incontro ideale tra il narratore del 2000 e il castrato del 700. Affascinante. Penso affascinante, sì, altro che. Insomma, devo dire. Allora, io sono laico, sono che non vuol dire non essere credenti, certo. Sono laico, sono scettico, sono soprattutto un illuminista. Io, credo, io considero San Tommaso il santo più simpatico e più vero che esista. Con tutti i falsi profeti che ci sono in giro, se uno viene a raccontarti che la persona che hai seguito per 3 anni è risorta, tu gli dici: ma che storia mi stai raccontando? Io voglio metterci la mia mano. Certo. E quindi quella è la fede autentica, perché oggi purtroppo la fede si nutre di tanta superstizione e di tanta creduloneria. E invece chi mette la mano crede autenticamente. È una visione. Papa Leone diceva le stesse cose che dico io. Esatto. Ogni volta, adesso ci ascoltiamo, cantata da Polanco. Starmene qui, ho negli occhi il color del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del ciel. Ogni volta che devo partire, io mi porto il ricordo di te, la mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me. Nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno, non vorrei, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui, la mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti, sento tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Eccoci di nuovo in studio e con naturalmente il nostro siparietto abituale, storie di che altri, dopodiché lasceremo la parola al nostro ospite. Questa volta abbiamo una poetessa scozzese, Carol Ann Duffy, Saying Something. Things assume your shape, discarded clothes, a damp shroud in the bathroom, vacant hands. This is not fiction. This is the plain and warm material of love. My heart assumes it. We wake. Our private language starts the day. We make familiar movements through the house. The dreams we have, no phrases for slip, throw our fingers into smoke. I dream I was not with you, wandering in a city where you did not live. I stared at strangers, searching for a word to make them you. I walk beside you, sweetheart. I say, Pedestrian daylight terms scratch darker surfaces. Your absence leaves me with the ghost of love. Half-warm coffee cups or sheets, the gentlest kiss. Walking home, I see you turning on the lights. I come in from outside calling your name, saying something. Dire qualcosa. Le cose assumono le tue sembianze. Vestiti smessi, un telo inumidito nel bagno, mani vuote. Non è immaginazione. È la materia calda e semplice dell'amore. In cuor mio lo do per scontato. Ci svegliamo il nostro linguaggio privato da inizio alla giornata. Ci muoviamo per la casa come al solito. I sogni che non sappiamo parafrasare ci sfumano tra le dita. Ho sognato di non essere con te. E vagavo per una città dove tu non abitavi. Scrutavo gli sconosciuti in cerca di una parola per farli diventare te. Al risveglio eri accanto a me. Tesoro, dico. Le parole banali del giorno raschiano superfici più buie. La tua assenza mi lascia con lo spettro dell'amore. Tazze di caffè o lenzuola che si raffreddano, i baci più delicati. Torno a casa a piedi. Ti vedo accendere le luci. Entro dentro, ti chiamo, dico qualcosa. E voilà, la parola al nostro ospite. Tocca ancora a me. Allora, ripeto sempre il titolo. Perché tra le altre cose il romanzo è in tutte le librerie proprio in queste ore. Sì. Ah, perfetto. Il castrato di Vivaldi, Biblioteca dei Leoni. Vabbè, devo anche citare il mio editore, perché è l'ingegner Luigi Crivellaro. Sia Luigi che Paolo, sto parlando di Paolo Ruffilli. Sì, sì. Vogliamo ricordare che è il più noto, il più famoso, il più tradotto poeta italiano del momento. Li devo proprio ringraziare perché ci hanno messo 48 ore per credere a questo romanzo, sì. E lo stanno facendo camminare molto bene. Allora, un'altra cosa che io posso, come dire, un altro versante, ecco, un'altra faccia di questo romanzo sono gli ambienti in cui Angelo Sugamosto vive. Poi mi tengo per la parte finale una cosa a cui tengo molto, perché questo romanzo è anche e forse soprattutto una ricerca del sacro. Ma per gli ambienti. Dunque, lui nasce il 1 ottobre del 1720 nel Polesine, il Polesine della fame, il Polesine assediato dall'acqua e dalla carestia. E naturalmente la possibilità che lui diventi un cantante famoso indica la possibilità di redenzione per una famiglia poverissima, costretta a portare i sacchi del misero grano nel mulino di un mugnaio di cui non si conosce il cognome, ma che da tutti era soprannominato Ciavapan. Ciavapan è un soprannome che dice tutto, sì. E ecco, il parroco intuisce le possibilità di questa voce del ragazzo, il quale approda una prima volta a Venezia, un'isola della laguna veneziana, per l'operazione di ablazione delle gonadi. Dico così per non dire castrazione, esatto, insomma, sì, ma, sì, esatto, insomma, sì, ci capiamo, esatto. E poi ci approda sempre per le aderenze, le conoscenze che aveva il parroco, ci approda per studiare a casa di Vivaldi. Vive nella casa di una delle sorelle di Vivaldi, che aveva proprio, loro stavano vicino a San Marco. Racconto però, è la topografia del romanzo, sì. È una topografia esattissima, accurata, cioè esatto. Mi sono documentato... Come d'abitudine. Prima citavo il maestro Luigi Calesso, il mio ex allievo Luigi Calesso, al quale ho mandato il manoscritto per una visione, ha detto, lui mi ha risposto così, guarda, non tutto quello che scrivi io lo sapevo, ho controllato, non hai sbagliato una parola, ecco per dire. Poi c'è, quindi la Venezia rutilante, la Venezia dei bassi fondi, poi c'è Parigi. Soprattutto la Parigi notturna e sotterranea. La Parigi di notte è una Parigi completamente diversa dalla Parigi di giorno, che vive sottoterra. I Champs-Élysées erano intersecati da una serie incredibile di gallerie. E lì mi invento delle storie, per esempio la storia dell'oste che si era costruito un'osteria sotto il ventre, ma era così ingrassato che quando morì non riuscirono a portarlo fuori e si dice che nei piatti di quel periodo, di quei giorni lì ci fosse un gusto tutto particolare perché qualche pezzo non era, posso immaginare qualche quale. Pezzo non è, vabbè, insomma. Poi Londra, la Londra dove lui incontra Handel e dove incontra poi anche altri personaggi, quindi ripeto, il Polesine della povertà, Venezia, la Venezia di Vivaldi e di Carlo Goldoni, il rapporto, racconto bene tra le altre cose una cosa che è poco nota, il rapporto tra Vivaldi e Goldoni. Goldoni era giovane, Vivaldi era già vecchio e bisognava mettere mano a un libretto. Un giorno si presenta Goldoni da lui e gli dice, ma le mani sul libretto gliele posso mettere io. Goldoni lo guarda e gli dice, ma chi è sto ragazzino che aveva poco nome ancora, ma cosa vuole questo? E Goldoni dice, datemi il libretto, non te lo posso mica dare. Ma no, datemelo, io e datemi un pezzo di carta, la penna, datemi la penna che la carta ce l'ho già io. E si mette su un angolo e in 20 minuti gli riscrive tutta una sezione del libretto. Vivaldi lo prende in mano, dice, vieni qua amico mio, e da una possibile inimicizia nasce una grandissima amicizia. Sì, io l'ho percorso un po'. Ho descritto una scena di cui nei memorialisti c'è solo esile traccia, chiaro, ma però, l'ho colorata, diciamo, ma la scena c'è. E poi la Venezia la Parigi, dove lui conosce i grandi, conosce soprattutto Rameau, l'autore di un'opera che io ascolto in continuazione e che ho scoperto scrivendo questo libro, devo dire, Les Indes Galantes, no? Che ha dentro, al proprio centro, ha una danza che io credo potrebbe andare in una discoteca moderna, una cosa... Guardate, il compitino per casa, andate su YouTube, sì? e digitate Les Indes Galantes, sentite cosa viene fuori. Les Indes Galantes, la storia Pocahontas, sì, per sapoco, insomma, esatto. La storia d'amore tra una indigena delle Indie e i colonizzatori, infatti. In cui lei poi preferisce il compagno che è un indigeno. E poi la Londra di Handel, questo mangiatore insaziabile e instancabile, che però era ormai avviato sulla strada di una progressiva crisi di nervi, crisi proprio del sistema nervoso, coniugato con una perdita dell'uso degli occhi. Era un mangiatore insaziabile. Difatti ho letto proprio la vita di Handel, sì. Sì. Un grande musicista. Praticamente con i nervi rovinati, sì. Lui continuava a comporre, a dirigere, il suo rapporto con i librettisti era un rapporto incredibile. C'era una parola che non gli andava in un libretto, svegliava il suo librettista alle 4 di mattina, lo faceva correre, mandava il valletto a svegliarlo, torna col librettista e gli faceva cambiare quella parola. Fu in mano a due medici ottici, almeno uno dei quali era un grande cialtrone. Una volta si operava sì di cateratta, ma pensatevi cosa potevano essere in termini di disinfezione la conoscenza dei tempi. Mamma no? mia. E quindi l'operazione andò, almeno la prima andò malissima e rese difficile, di fatto irrecuperabile, la situazione per la seconda. E poi c'è questo incontro, dicevo, con Casanova, che racconta una storia che Casanova non ha mai raccontato, una storia di pirateria. Perché pirateria. Allora, questo romanzo ha tanti spini laterali, spin-off, come si dice. No? Esatto. Per esempio, la donna importante, Angelo Sugamosto ha infinite amanti. La donna più importante della sua vita, Saviara, è una bravissima ragazza che una volta viene sospettata di stregoneria e processata per stregoneria. Ulla. Riesce a fuggire dalla prigione in cui di fatto è condannato a morte, no, in una maniera avventurosissima che racconto, e approda in una banda di banditi dove lui la conosce, perché a sua volta viene aggredito dai banditi durante un viaggio. Ma guardate, voi mi state guardando così, è un libro di straordinarie avventure. Ma bello, un'avventura, bello. Un'avventura dietro l'altra, ma adesso per ridere o per quantomeno per sorridere. Allora, come si viaggia? In carrozza. Voi lo sapete che io, per sapere bene come funzionavano le carrozze, ho scomodato il massimo esperto italiano di carrozze e due direttori di musei delle carrozze. Addirittura. Per un particolare che prende sì e no mezzo capitolo del libro. Ah, e per avere per l'indicazione documenta, di come era fatto, sì. Di come poteva essere. Tutte, chi acquisterà il libro, e mi auguro siano numerosi, ho la presunzione di dire che non sarà un acquisto inutile e non divertente. Beh, ma tutti do una chiave di lettura un po' singolare. Andate alla fine a leggere la lista delle persone che io ringrazio. A un certo punto c'è una partita di carte durante il soggiorno veneziano, e io, per sapere alcune cose, sono andato a contattare il più importante studioso italiano di giochi delle carte, autore della grande enciclopedia del gioco delle carte. Non vi dico, per la stregoneria ho contattato una professoressa dell'Università di Messina che si occupa in modo particolare di stregoneria, eccetera, eccetera. Ho scomodato una infinità di persone. Mondo. Allora, la chiave di lettura che do è: andatevi a leggere i ringraziamenti e scoprirete di quanti e quale parola. Una persona mi ha detto quali pesci particolari potevano trovarsi in un bacaro veneziano sulle bronze durante una notte di carnevale, e io perfino quello sono andato a studiare. Benissimo, adesso passiamo all'ultimo brano musicale. All'ultimo brano, che è Tango Italiano, cantato da Milva. Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiar, fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quale dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un tango italiano dato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il quale volevo chiedere la ricerca del sacro, al quale è stato accennato prima, che cosa ha a che fare con tutto quello che abbiamo ascoltato finora? Sì, beh, io le cose che ho detto, come dire, è per reclamizzare il prodotto, diciamo. No? Sì, per far vedere che lo si può leggere con tantissimo interesse. Per esempio, non so, prima accennavo il processo per stregoneria, il discorso sulle streghe e così via. Ci sono anche tantissime cose, ripeto, storie di pirateria. Ma il romanzo è anche una, come dicevo prima, una ricerca del sacro. Guardate, è la ricerca del sacro che in fondo pervade tutta la mia narrativa e che è diventato così evidente soprattutto nel mio precedente romanzo, Il delitto sulla collina proibita, con la vicenda di Don Fervido. Parte da una... Oh, prima non ho detto, ma insomma conosce per esempio anche i Tiepolo, conosce la Rosalba Carriera, perché lui... prima di andare a studiare da Vivaldi passa una sorta di apprendistato nella bottega di un liutaio che gli dà la prima infarinatura musicale. E in questa bottega di liutaio passano un po' tutti. Lui conosce Tiepolo prima attraverso la sua pittura e attraverso un dipinto particolare che si trova in una certa chiesa di Venezia, di cui racconto tutto, non voglio appesantire questa intervista di particolare, ed è il sacrificio di Isacco. Ecco. Allora, io lì, quando lo faccio entrare in quella chiesa e gli faccio vedere questa cosa, sono stato letteralmente aggredito da una cosa che ha attraversato tutta la mia vita ed è sintetizzabile in questa domanda: se io dovessi dare un volto a Dio, se io dovessi dargli delle fattezze corporee, come me lo immaginerei? E da tutta la mia vita scopro che Dio me lo sono immaginato come il Dio che all'ultimo momento scende a fermare la mano di Abramo che sta per sacrificare il figlio. E storna, ecco, parlo anche del capro espiatorio, chiedo scusa, e storna la maledizione, il motivo stesso del sacrificio, diciamo così, su un capro espiatorio, su una capra che viene mandata, che viene sacrificata al posto di Isacco. E da questo c'è questo detto capro espiatorio. Sì, perché poi questa cosa nella cultura ebraica, questa cosa era assolutamente istituzionalizzata. Il popolo ebraico radunava tutte le colpe del popolo ebraico, diciamo, la progenitura rispetto alla confessione cristiana, ne faceva carico sulla groppa, quasi fisicamente, di un capro. Lo mandava nel deserto a morire. Okay. E si portava via dunque tutto il male, il capro espiatorio. Da questo sì deriva, deriva da questo. Sì. La domanda è: e se Dio non l'avesse fermata quella mano? Buona domanda. Che voi capite, almeno io la vedo così, poi non pretendo che gli altri la vedano come me, ma voi capite che la nostra idea di Dio sarebbe completamente diversa se quella mano non fosse stata fermata. Angelo Sugamosto si sente l'Isacco sacrificato. L'Isacco per il quale Dio non è intervenuto a fermare la mano. Un tempo la mano. Quante volte ci siamo interrogati, ma com'è possibile che un padre metta sull'altare dei sacrifici il proprio figlio? Come può un padre accettare questa cosa? Perché c'è la fede in Dio? Perché è uno spiazzamento totale. E se Dio non avesse fermato, mi perdoni Gesuina, e se Dio non avesse fermato? E allora per tutta la vita, Angelo Sugamosto cerca qualcuno che gli scriva un libretto, un'opera. Alla fine sarà lui a risolvere questa cosa in un modo che non dico, perché è parte dell'indagine per scoprire la sua identità, ma è una cosa, come dire, clamorosa, inattesa. Cerca per tutta la vita uno che scriva, un librettista e un musicista, che scrivano un'opera che racconti il suo dramma, perché nella Bibbia c'è una situazione in cui Dio non ferma la spada che sta per calare sul figlio. Ed è la storia che si trova nel libro dei Giudici, capitolo 11 e capitolo 12, la storia del Galadita, di Jefte il Galadita, il quale, figlio di una prostituta, viene emarginato dal suo popolo. Ma quando il popolo ebraico è attaccato da una potenza straniera, lui, che era diventato un famoso capo militare, viene richiamato, e allora è lui che detta legge, dice: se io vinco sarò il vostro re, viene richiamato per difendere il popolo di Israele. E lui, prima della battaglia decisiva, dice: Dio, dice delle cose di una stoltezza assoluta, Dio, se mi farai vincitore, io quando tornerò a casa ti sacrificherò la prima persona che mi correrà incontro. E vince, e a corrergli incontro è l'unica figlia, su cui tutta la letteratura sia musicale che scritta, io ho trovato tutti coloro che si sono occupati di questa vicenda, e lui la sacrifica. Ci racconta il racconto biblico, che è un racconto che mette i brividi, ci racconta la disperazione di Jefte, e ci racconta anche la reazione della figlia, la quale gli dice: padre, io accetto la promessa che tu hai fatto al Dio. Lasciami prima di morire 6 mesi perché io possa vagare con le mie amiche nei boschi e vivere la vita che non mi sarà concessa di vivere in futuro. E quello è un padre che sacrifica la propria figlia senza remissione. Naturalmente si può dire che Jefte è stupido quando Abramo non lo è. Però il dramma. Ecco, è proprio l'altra faccia della reazione. Angelo Sugamosto sente di essere il figlio che non è stato salvato dal Dio nel momento, e lui accetta la sua vita, che, ripeto, è una vita avventurosa, in qualche momento veramente difficile, perché c'è un momento in cui sta molto male e deve scappare dai suoi sponsor, i quali vorrebbero sfruttarlo in un altro modo, e va a vivere sui barconi della Senna. Vi racconto tutta la vita sulla Senna, con delle cose che è incredibile, che sono andato proprio a rovistare. Ha una vita, ma e poi, insomma, la sua vita gli riserva anche una buona dose di successo, soprattutto quando Handel lo prende sotto la sua ala protettrice. Ma lui vorrebbe, rimpiange sempre, insomma, dico così, il fatto di non aver potuto avere una famiglia sua, condizione, di non aver avuto dei figli, di non avere una discendenza. Alla fine, non racconto i particolari perché questo è un particolare, è un tratto importante, alla fine lui ritorna nel posto che lo ha visto nascere, si informa di come stanno andando le cose per la sua famiglia, ma non si fa, lascia un'offerta, ma non si fa vivo con quella che è, con quello che è sangue, che è stata, del suo, che sangue. È sangue del suo sangue. Devo dire che è una storia di un fascino straordinario. Mamma mia, ma tutte queste storie. Ecco. E niente, noi tutte non possiamo far altro che ringraziare il nostro ospite, al quale naturalmente rivolgiamo coram populo l'invito a ritornare un'altra volta. E io mi impegno assolutamente. Perfettamente. Ma no, sempre, se buon Dio mi dà salute. Naturalmente, Dio piacendo, sempre, tutto questo. È la prima cosa. Comunque il più presto possibile, dai. Perché grande. Grande veramente. Prima grande. Delle ferie, va bene. Va benissimo. ci sono tanti mesi però. Sì, vabbè, dai, adesso non allarghiamoci. Vabbè, naturalmente che ringraziare di nuovo il nostro ospite. E aspettarlo il più presto possibile. Esatto, grazie. Dio piacendo la prossima volta. E noi ci sentiamo la prossima volta, sempre a Dio piacendo, no? E come sempre io vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.